Buongiorno. Non poteva esserci un'introduzione migliore per il messaggio di questa mattina. Questa mattina parleremo della famiglia e cercheremo di scoprire, c'è tanto da dire. Io stavo pensando a tanti modi per poter, come dire, introdurre l'argomento, però quello che hanno fatto i bambini e quello che abbiamo detto intorno ai bambini credo che sia stata l'introduzione migliore. E potremmo dire un sacco di cose sulla famiglia e iniziare e non finire più, però cercheremo di rispondere a poche domande e forse in maniera confusa, però cercheremo comunque di rispondere. Cercheremo di rispondere, di capire che cos'è la famiglia, non soltanto nella nostra società, in quello che stiamo imparando a guardare intorno a noi, ma che cos'è la famiglia nel cuore di Dio. A che cosa serve la famiglia? Qual è lo scopo della famiglia? E queste un paio di domande. Ognuno di noi ha la sua idea di famiglia e ognuno pensa che la sua famiglia è o la peggiore di tutte o la migliore di tutte. La via di mezzo non c'è. Cioè o siamo i migliori o siamo i peggiori. Ma Dio, che ha inventato la famiglia, nella sua idea, nel suo cuore, aveva qualcosa di preciso, aveva degli scopi precisi, aveva un modello preciso da darci e affinché noi lo potessimo seguire. Se ci guardiamo intorno, e basta ascoltare il telegiornale, o leggere il giornale, o guardare le notizie su internet, o anche semplicemente ascoltare i ragionamenti fra amici o amiche, ci rendiamo conto che se c'è un obiettivo che il diavolo sta cercando di distruggere, di annientare, è proprio la famiglia. In ogni suo aspetto, come funzione sociale, come nucleo della società, come prospettiva per la vita futura, come dire, essenza della società stessa. Il diavolo sta cercando di distruggere la famiglia perché lui ha scoperto qualcosa di molto semplice, che delle famiglie sane fanno una società sana e delle famiglie malate fanno una società o il mondo esattamente nel quale viviamo. Il mondo nel quale viviamo, le cose che leggiamo che succedono, sono il risultato di quello che noi stiamo facendo con le nostre famiglie. E non sto esagerando e non voglio neanche colpevolizzare nessuno. Vedete, noi o sappiamo quella che è la verità di Dio riguardo le famiglie, o sappiamo che cosa dobbiamo fare con le nostre famiglie, o sappiamo qual è lo scopo di Dio con le nostre famiglie. E lo sappiamo in maniera chiara, in maniera nitida, per poter seguire il modello che Dio ci dà, o sceglieremo uno tra i modelli che vengono offerti dalla società. E devo dire che nella società abbiamo sviluppato tutta la fantasia possibile per dare un vestito alla famiglia. C'è quello che dice la Bibbia, c'è quello che è nel cuore di Dio per la famiglia e c'è quello che dice la televisione, quello che dice la pubblicità, quello che ci viene insegnato riguardo alla famiglia. E noi adotteremo o un modello o l'altro. Quindi per questo è importante che noi come Chiesa, più di tutti sappiamo qual è la volontà di Dio con la famiglia. Come Chiesa più di tutti sappiamo qual è lo scopo di Dio con la famiglia, per poter fare e mettere in pratica nella nostra famiglia quelli che sono i principi e la volontà di Dio e così influenzare il mondo che è intorno a noi. Questo io voglio che sia chiaro e che sia qualcosa di importante al quale noi guardiamo. Nei modelli che abbiamo intorno nella nostra società abbiamo sviluppato, abbiamo avuto tanta fantasia. Io mi sono messo a fare una piccola ricerca e ho trovato dei modelli di famiglia che nemmeno sapevo che esistessero. Ci sono dei modelli di famiglia che vengono chiamati, devo mettere gli occhiali, no, faccio così che sono più grande, poliginandrica. Chi è che sa che cos'è una famiglia poliginandrica? Nessuno. Bella, sapete chi l'ha inventata questa famiglia poliginandrica? Un pastore, in una chiesa, all'inizio del 1900. Lui ha fatto un ragionamento molto semplice. Lui ha pensato, il Signore ci ha salvato e ci ha santificato e noi non possiamo peccare più. Che cosa ha fatto? Ha celebrato con la sua chiesa un matrimonio di gruppo, così tutti quanti erano marito e moglie di tutti. E così ha eliminato la tentazione in mezzo alla chiesa. Non sto scherzando, è vero, non vi sto dicendo delle stupidaggini, è vero. Poliginandrica. Poi ci sono quando c'è un marito con più mogli, una moglie con più mariti, insomma, ci siamo dati da fare con la nostra fantasia. E infine abbiamo inventato la famiglia omogenitoriale, cioè quella dove i genitori hanno lo stesso sesso. Non mi dite che l'ho visto solo io succedere questo, l'abbiamo visto che succede, sì, eh? E abbiamo inventato, e ci stiamo battendo come società per emanciparci dal fatto che il marito deve essere maschio e la moglie deve essere femmina. Può essere ognuno come vuole, perché ognuno, abbiamo pensato che sia giusto che ognuno abbia il diritto di fare quello che vuole. Vedete, se noi togliamo da questo ragionamento il concetto di peccato, tutto il resto è legittimo. E c'è poco da ridere. C'è da stare veramente preoccupati. Perché se noi togliamo il concetto di peccato, se noi togliamo la verità che Dio presenta, è quello che Lui ha detto che deve essere la famiglia, perché ognuno non deve essere libero di fare come meglio si sente comodo? Da qui e da questo l'importanza della Chiesa, da questo l'importanza del Vangelo, da questo l'importanza che noi scopriamo che cos'è famiglia, perché esiste la famiglia, qual è il modello di Dio della famiglia, perché è la verità che rende liberi. E ogni altro modello di famiglia al di fuori di quella divina porterà sofferenza, porterà distruzione, porterà morte, forse in nome di un'emancipazione sociale, ma sempre morte porta, perché il salario del peccato, la Bibbia dice, che è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna, e in questi doni che Dio ci ha dato ci sta la famiglia. Vi interessa questo fatto? Andiamo avanti? Eh? Sì. Bene. La famiglia secondo il modello divino. Ho preso solo un paio di versi che sono quelli che conosciamo di più e che sappiamo anche a memoria, perché abbiamo visto il film La Genesi, abbiamo visto il film di Mosè e quindi lo sappiamo. Genesi capitolo 1 versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra animale che si muove sulla terra. In questi versi noi vediamo che la famiglia è la risposta al bisogno di Dio. Dio è il primo ad aver bisogno delle famiglie, perché doveva riempire la terra. Dio aveva creato il cielo e la terra, aveva fatto tutto quello che abbiamo dinanzi agli occhi, cioè il mondo, per quanto diventa piccolo perché possiamo andare in qualsiasi posto con gli aerei, però è grande e tu lo devi riempire tutto di persone, e Dio lo ha fatto, ha visto che tutto era buono e poi si è trovato di fronte solo Adamo, dice: ma è questo qua, dove devi andare? Solo Chi la deve riempire tutta sta terra? Perché Dio aveva preparato la terra affinché fosse piena di uomini. Perché Dio ama gli uomini. E io ho pensato che è come quando noi prepariamo un banchetto, un pranzo, e addobbiamo la tavola, e addobbiamo tutto, e poi non viene nessuno a mangiare. Beh, quella era la situazione proprio dell'inizio, c'era tutta la terra vuota. Allora Dio ha pensato, la dobbiamo riempire. Come la dobbiamo riempire? Attraverso la famiglia. La famiglia l'ha inventata Dio perché serve a Lui. Dio ha inventato la famiglia perché ha uno scopo, ha degli scopi precisi. In Genesi al capitolo 2, il versetto 18 viene sottolineato e viene aggiunto qualche dettaglio. È scritto: e Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un sonno profondo sull'uomo, che si addormentò, prese delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolta dall'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: finalmente, questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. E l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Qui è dove Dio inventa la famiglia. Ed è di più di una bella storiella. Se voi trovate una ragione più congrua, più logica, ditemelo, che io questa la metto da parte e credo a quello che dite voi. Questo è il piano che Dio ha avuto con l'uomo. E la famiglia risponde ai bisogni dell'uomo. L'uomo, dopo che aveva girato in lungo e in largo, e conosciuto gli animali, dato i nomi, e una cosa e l'altra, non si sentiva contento, non si sentiva soddisfatto. Aveva bisogno di qualcosa di diverso, aveva bisogno di qualcosa di più del gatto, del cane in casa. Aveva bisogno di qualcosa che gli appartenesse, che facesse parte di sé, nella quale si poteva riconoscere. E ha fatto l'uomo, e ha fatto la donna. E li ha fatti maschio e femmina. E quindi qui già iniziamo ad avere qualche modello più preciso di quella che è la famiglia. La famiglia risponde al desiderio di Dio e al bisogno di Dio di riempire la terra. La famiglia risponde al bisogno dell'uomo di avere qualcosa di più per poter avere delle relazioni più sane, più soddisfacenti. Innanzitutto si parla di un uomo e di una donna. Quindi già il modello diverso lo possiamo scartare. Anche perché se Dio avesse voluto, se fosse stato buono che due uomini e due donne, o fosse stato addirittura meglio che due uomini o due donne facessero famiglia, avrebbe affidato Gesù, il suo figlio, a una famiglia del genere. Invece lui ha pensato che era meglio che c'erano un uomo e una donna. Quindi questo è il primo punto, un uomo e una donna. Il secondo punto è un uomo e una donna. Dio ha pensato un uomo e una donna. Non una donna e tanti uomini, o tanti uomini e una donna, o tante donne e tanti uomini. Queste sono tutte le opzioni che noi ci siamo inventati, sono tutte, come dire, le varianti che abbiamo costruito. Ma quello che Dio ha pensato era questo. Ora, se noi abbiamo la presunzione di pensare, di sapere meglio, di più di Dio, ok, ma se noi crediamo che Dio abbia scelto il meglio per noi, allora è importante che afferriamo questo. E non lo afferriamo come un limite, come un peso, come qualcosa che, come dire, toglie la libertà, ma come qualcosa che ci benedice, come qualcosa che ci dà gioia, come qualcosa che è quello che Dio ha pensato per noi. E poi dice, i due diventano uno. E questo, qui si apre tutto una prospettiva molto ampia, che è proprio il cuore della famiglia, che è proprio il cuore del matrimonio. I due diventano uno. E Gesù ha ripreso esattamente queste parole e gli ha dato un senso ancora più profondo, ancora più marcato. Lui ha detto in Matteo, al capitolo 19, al versetto 4, dove i farisei gli stavano chiedendo, dice, ma com'è con il divorzio, con la donna, se io mi stanco, mi posso dare da far diversamente? E Gesù gli ha risposto e gli ha detto, non avete letto che il Creatore dal principio li creò maschio e femmina e che disse, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Io voglio dire solo una cosa riguardo a questo, perché avremo modo di parlarne di nuovo. Ma una cosa la voglio dire, perché c'è una chiave importante nei due che diventano uno, che non è soltanto una questione immaginaria o una questione di parole che vengono dette, è una volontà di cambiamento. Il problema delle famiglie, il problema dei divorzi, il problema delle separazioni è che ognuno vuole rimanere se stesso, è che ognuno vuole rimanere indipendente, è che l'altro si deve adattare a me, che ognuno non è disposto a pagare il prezzo per diventare uno. È questo che separa e che uccide le famiglie. Se hai pensato di sposarti, significa che stai pensando di cambiare. Se hai pensato di sposare, se ti sei sposato, è perché hai pensato, hai messo in conto di cambiare, di non essere più te stesso, ma di diventare un altro. E questa è una chiave molto importante. E questo è il bisogno che Adamo sentiva per diventare un uomo migliore, per innalzare il suo standard di sentimenti, di intelligenza, di morale. Lui non era sufficiente a se stesso, aveva bisogno di qualcos'altro. E questo qualcos'altro era nell'unione della famiglia. E questo non ha niente a che vedere con il sesso. Perché quando stavano facendo questi ragionamenti, non avevano ancora consumato. Quindi sarebbe venuto dopo quell'altro aspetto, ma qui si tratta di qualcosa di profondo, si tratta di qualcosa che ha a che fare con il cuore, con i sentimenti, con la mente, con la volontà, con la decisione, con l'impegno, con il sacrificio, con l'amare. Se dobbiamo dire una cosa sola dell'amare, diciamo che significa cambiare. Se tu ami è perché sei disposto a cambiare. Se tu non sei disposto a cambiare, non dire a tua moglie che gli vuoi bene, perché non è vero. E viceversa. Comunque, questo è tutto un altro ragionamento che avremo modo di riprendere. Ma parliamo dei ruoli della famiglia. La famiglia è la prima scuola per il rapporto tra i sessi. È nella famiglia che avviene la scoperta che ci sono i maschi e le femmine. E non sto parlando che le femmine hanno la farfallina, i maschi hanno l'uccellino, non sto parlando di questo. Sto parlando di scoprire il modo di pensare, il modo di sentire, il modo di vedere, il modo di essere, il modo di esprimersi, il modo di amare. È nella famiglia che si impara che il papà e i maschi vogliono bene in un modo e le mamme vogliono bene in un altro. E sto dicendo diverso, non sto dicendo meglio o peggio, sto dicendo diverso. Uno è complementare all'altro e uno ha il bisogno dell'altro e uno valorizza l'altro. C'è una storia che mi racconta mio papà. E quando io ero piccolo, che abitavano a Milano, abitavamo in un condominio. Allora lui stava ritornando dal lavoro e c'erano le ringhiere, abitavamo, io non mi ricordo niente, questa è la storia che mi hanno raccontato. E abitavamo, e io ho messo la testa nella ringhiera per vedere papà che arrivava. Ora, le orecchie, quando ero piccolo, erano esattamente come sono adesso. Quindi avevo la testa piccolina e le orecchie grosse, vi faccio vedere le foto. Allora, a entrare la testa è entrata, a uscire non usciva più, perché le orecchie si erano incastrate sulla ringhiera. Allora mia madre ha detto: chiamiamo il dottore. E mio papà ha detto: al massimo chiamiamo il fabbro. Questa è la diversità tra l'uomo e donna. E questo è importante, perché non riusciremo mai a pensare come pensa una donna. E né una donna riuscirà a pensare come pensa un uomo. Ma abbiamo bisogno di scoprirlo, abbiamo bisogno di impararlo. E la scuola principale è la famiglia. Mi sapete spiegare perché dei ragazzi adolescenti sentono il bisogno di riunirsi in gruppo e di violentare un'altra loro coetanea e di riprendere tutto con il cellulare? Questo è successo pochi giorni fa. Adesso io non voglio colpevolizzare quelle famiglie, certamente quei genitori non sono peggio di me, perché tutti i genitori vogliono il meglio per i loro figli, ma se il risultato di quello che noi riusciamo a seminare nei nostri figli, o stiamo seminando nei nostri figli, è questo, allora abbiamo parecchio da rivedere. Capite l'importanza di scoprire i veri valori, i veri perché della famiglia? O noi impariamo da Dio che cosa significa essere famiglia, che cosa significa essere marito, essere moglie, essere genitore, essere figlio, o lo impareremo dalla televisione, lo impareremo dalla pubblicità, lo impareremo dai giornali, con le conseguenze che sono sotto i nostri occhi. Punto numero due, la scuola, no, la famiglia è la prima scuola dove si impara il rapporto tra le generazioni, dove si impara a relazionarsi tra generazioni diverse. A me piace molto quella pubblicità di quella marca di macchine dove arriva il papà, toglie la bicicletta dal cofano della macchina e chiama il figlio e gli dice: guarda. E il figlio vede, ma non vede la bicicletta, vede la macchina. E noi sappiamo come va a finire. È normale che ci sia una prospettiva diversa tra padri e figli, tra una generazione e l'altra. E guai se non fosse così. Ma molte volte questo diventa attrito, lotta, guerra, ribellione. Dove si impara in modo corretto? O qual è la scuola dove imparare in modo corretto come relazionare le generazioni, se non la famiglia? Dio ha la sua soluzione. Dio ha la soluzione, ed è scritta nel Salmo 78. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi, quelli che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza, le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza. Istituì una legge, ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. E questi le avrebbero raccontate ai loro figli. Ascoltate il motivo di tutto questo: perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Non è la mia generazione o la generazione dei miei figli, è Dio che deve stare al centro. Ed è Lui che lega le generazioni, ed è Lui che permette la convivenza, ed è Lui che permette che una generazione arricchisca l'altra. Io ho bisogno di sentire i ragionamenti che fa mio padre, ma ho bisogno di sentire i ragionamenti che fanno i miei figli, perché in tutte e due ci sono delle verità e da tutte e due le cose io ho bisogno di imparare, ho bisogno di cambiare. Se noi mettiamo Dio al centro delle nostre famiglie, se noi facciamo quello che Dio dice, sì, probabilmente i nostri figli commetteranno lo stesso degli errori, ma almeno ci garantiamo di poterci guardare allo specchio come genitori e dire: io ho fatto quello che Dio si aspettava da me. E questo è già tanto, lasciatemelo dire. Il terzo punto. Questo è un po' più difficile. La famiglia è la prima e principale struttura sociale che ha il compito di umanizzare le persone, attuando il passaggio dalla natura alla cultura. Ora io quando l'ho letto non ho capito niente. E allora mi sono messo a pensare, mi sono messo a riflettere e poi ho visto una fotografia e quella fotografia mi ha illuminato. La voglio mostrare a voi. Chi sono queste due bambine? Questa bambina che è da questa parte, che è la mia destra e la vostra sinistra, è Francesca Marina. Una bambina che è nata su una barca di naufraghi da una mamma nigeriana e per questo l'hanno chiamata Francesca Marina. La bambina che è dall'altro lato è nata lo stesso giorno e sapete chi è? È la figlia della principessa d'Inghilterra. Ora, secondo voi, la famiglia a cui appartengono avrà influenza e avrà ripercussioni nella loro vita? Sì o no? Questo significa che la famiglia porta le persone dalla natura alla cultura. Semplicemente questo. Che cosa succederebbe se noi scambiassimo di culla le bambine? Vabbè, a parte che una è nigeriana, quindi è un po' più scura di pelle, però ammettiamo che fossero tutte e due nigeriane, va bene? E le scambiamo di culla. Senza che niente sa nessuno, hanno le stesse opportunità, le stesse possibilità. Non c'è niente di sbagliato dentro di loro. È quello che le verrà offerto che farà la differenza. Che cosa sta offrendo la mia famiglia ai miei figli? Che cosa sta offrendo la tua famiglia ai tuoi figli? Ci stiamo assicurando di dare il meglio come genitori? Stiamo seminando i giusti semi nel loro cuore? Quando noi diciamo che la famiglia è la principale struttura che ha il compito di umanizzare le persone, stiamo dicendo questo, di voler offrire la migliore opportunità di vita per le persone per le generazioni che verranno. E qual è la migliore opportunità di vita se non l'Evangelo? Ecco perché noi abbiamo bisogno di capire, di scoprire, di valorizzare qual è il compito che io ho come genitore, qual è il compito della mia famiglia. Il compito della mia famiglia è quello di Giosuè. Quanto a me e alla casa mia, serviremo l'Eterno. Sapete, non c'è niente di più importante di questo. Non c'è niente. Io lo sapevo che andava a finire così. Però vedete il dono che Dio ci ha fatto di offrirci la possibilità di avere una famiglia. È enorme. La fiducia che Dio ha avuto nell'affidare a noi dei figli è enorme. E non l'ha fatto solo con me, l'ha fatto con noi. E noi non possiamo lasciarci trascinare da esempi diversi. Noi non possiamo lasciarci ingannare da modelli diversi. Noi dobbiamo prendere la parola di Dio e rimetterla al centro e dire: Signore, questa è la verità e io a questo mi rifarò, perché questo sarà la salvezza e la salute per me e per la mia famiglia. E questo è il compito della Chiesa. Noi non abbiamo soltanto il dovere, ma abbiamo anche la responsabilità come Chiesa di prendere queste verità e di riportarle al centro e di riportarle alla luce e di dire a tutti: questo è il piano di Dio e qui c'è la vita. Tutto il resto è morte. Nessuno di noi sarà abbastanza capace di essere o di formare una famiglia adeguata. Saremo sempre, grazie, saremo sempre mancanti, insufficienti, commetteremo sempre degli errori. Ma la parola di Dio ha una speranza per noi ed è a quella che io voglio che ci rifacciamo, ed è a quello io vorrei che ci aggrappiamo, ed è quello a cui io vorrei che guardiamo. È scritto in Geremia, al capitolo 29, al versetto 11. E il popolo di Israele era oppresso e schiavo. E Dio gli dice: io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ma io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. E forse le nostre famiglie sono prigioniere di situazioni sbagliate, di trappole nelle quali siamo caduti, di bugie alle quali abbiamo creduto. Ma il Signore è capace e vuole riscattarci. Vuole riscattare noi, vuole riscattare le nostre famiglie. Perché Lui sa i pensieri che ha per noi, pensieri di vita, per dare un futuro. E se un futuro c'è, è nelle famiglie. Se un futuro c'è, è nella prossima generazione. Se un futuro c'è, è nei nostri figli, ma quel futuro è nelle nostre mani. Come Marina, Francesca e Carlotta, così i nostri figli hanno tutte le migliori opportunità e possibilità dinanzi a loro. Ho un destino segnato di sofferenza e di miseria. Dipende da quello che noi scegliamo di fare con le nostre famiglie, da quello che noi scegliamo di fare con l'Evangelo nelle nostre famiglie. La mia preghiera è per me, per noi, che possiamo riscoprire il valore della famiglia, lo scopo della famiglia, e chiedere a Dio che ci possa dare grazia per poter rispondere alle aspettative che Lui per primo ha per noi. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Signore, io ti voglio ringraziare per la famiglia che tu mi hai dato. È la cosa più preziosa che tu mi hai affidato. E io ti prego che me ne possa prendere cura come marito, come padre, secondo quello che è il tuo modello. E ti prego per noi come Chiesa, che possiamo guardare a te, guardare al modello che tu ci hai dato e rifarci a quello, spenderci per quello, perché questa è salvezza per le anime nostre e dà gloria al tuo nome. Signore, io ti chiedo di benedire questa parola nei nostri cuori e di darci speranza affinché ogni senso di fallimento che naturalmente viene guardando alle cose che non abbiamo fatto come dovevamo possa essere schiacciato dalla tua grazia e da nuove opportunità che metti dinanzi a noi per la gloria del tuo nome, Gesù. Amen.